Dunque a te. Sì, un brindisi. progenitor. Dunque attenti, sì, attenti al tal guisa, ucciderete, a me. serve l'uomo, una bella esser vostro. E lo potrei. O se mia foste, custode degli per vostri soavidi. Vedete, ha forse alcuna cura di me. Perché nessuno al mondo vada. Nessuno. Tranne solo io. Ma è vero, così grande amore dimenticato mio. Ridete, e in voi va un cuore. Un cuore, sì, forse. E a quel nome chiedete? Ma se ciò fosse, non potreste allora celiar. Dite davvero. Io non mi inganno. Da molto è che mi amate. Ah sì, da un anno. Un dì felice te. Croce delizia, delizia il cor. Forse c'è me, dietemi, solo mi sta. Potrò amare, lo so, un po', così però il cuore. Yeah!